Sentire là fuori, l'aria è carica di lampi, suoni e di streghe e vampiri. È soltanto un amore profondo, quello che posso darti qua dentro. Un abbraccio di mille universi. Si è spento il calore del mondo, l'aria grigia ha mangiato i colori, si prevedono a breve distanza nuove inondazioni, e posso stringerti ancora per molto, aspettando che si spezzi il sole, e ti stringo e stringendo ti sento che tutto va bene, va bene, va bene, va bene. Riscalda il cuore.